Quando vedi il damerino che alla moglie se ne va, che alla moglie se ne va. Zitto, zitto, sento gente. Pare che venga per di qua. O dunque appena che tu il vedi, vieni tosto ad avvisar, vieni tosto ad avvisar. Zitto, zitto, vieni al cupo. Farmi udire a camminare, ma non dir che sia tornato, che nessun l'ha da saper, fa pur quanto.